607. Ciambelle, ossia buccellati seconda maniera. Queste ciambelle da famiglia sono di più semplice fattura delle precedenti. Farina d'Ungheria grammi 500, zucchero grammi 180, burro grammi 90, cremor di tartaro grammi 15, bicarbonato di soda grammi 5, uova numero 2, odore di buccia di limone o di anaci o anche di cedro candito in pezzettini. Fate una buca nella farina per metterci il burro sciolto, le uova e lo zucchero. Intridete la farina con questi ingredienti e col latte che occorre per formare una pasta di giusta consistenza e dimenatela molto. Le due polveri e gli odori aggiungeteli in ultimo. Invece di una sola ciambella, potete farne due e tenerle col buco largo, che vengono grosse abbastanza. Fate loro qualche incisione alla superficie, doratele col rosso d'uovo e cuocetele al forno o al forno da campagna, ungendo la teglia con burro lardo. Anche con la metà delle dosi si ottiene una discreta ciambella.